sei ambizioso, il tuo bene non ti appartiene. Se sei un sensuale, rincorrerai sempre il piacere. Solo chi ragiona con la sua testa crede nelle sue azioni, me l'ha detto Marco Aurelio mentre scrivevo le mie canzoni. Ogni uomo ha il dovere di amare anche chi gli fa torto. Agisci come se ogni tuo gesto fosse l'ultimo tuo figlio, e troverai sollievo anche nelle cose più banali. Me l'ha detto Marco Aurelio tra le calli e i suoi canali. Ora è giunta l'ora di accordare i nostri violini, le nostre arpe, i nostri cuori, di liberarci di questi cretini, di queste terre affumicate, piene di grasso e di ciclisti che vanno in giro pentastellati e si credono tutti dei cristi. Oh. Ama la modestia e non candidarti per il potere. Chi parla in nome di tutti è un traditore, un impostore. Parla per te stesso, con gli occhi aperti, lo sguardo dritto. Me l'ha detto Marco Aurelio mentre skypavo con un uomo morto. In molti saranno delusi dalla megalomane pazzia di credere che il popolo sia la sola garanzia. La verità è di tutti, ma appartiene solo a pochi. Me l'ha detto Marco Aurelio mentre mangiavo due fichi. Ora è giunta l'ora di accordare i nostri violini, le nostre arpe, i nostri cuori, di liberarci di questi cretini, di queste terre affumicate, piene di grasso e di ciclisti che vanno in giro pentastellati e si credono tutti dei cristi. Hey.